Fabio, ho acceso in questo istante, ho acceso proprio adesso, ho finito di mangiare un po' tardi. E qua praticamente di tanto viene un blackout in questa zona, manca per pochi minuti e ritorna. Ritorna, poi manca di nuovo, poi ritorna di nuovo. Adesso le stanno facendo lavori. Eh beh, sicuramente sì, se funziona così, in questo momento vuol dire qualche lavoro lo stanno facendo in qualche impianto, qualche cabina, che lo sa. E vabbè, interessante che ci sia stavolta la corrente elettrica, però sarebbe triste. Eia, invece l'acqua dice che razioneranno. O almeno il giornale diceva, come l'ha detto mamma, che tipo dalle 8 di sera fino a domani mattina non c'è acqua, non abbiamo acqua nei bacini, dovranno razionare pesantemente. E io da stanotte sì. Poi vabbè, da bere ce l'abbiamo perché nei supermercati c'è, diciamo, se uno vuole tenere l'acqua per il gabinetto, per le solite cose, deve riempire bacili, bidoni, contenitori vari, capito? Per lavarsi le mani, insomma. Ho sentito al Gazzettino Sardo che un 15% almeno a Bidirindo il bacino è svuotato di almeno 15% rispetto a come deve essere, per cui ci sarà bisogno di fare dei turni nelle varie zone per avere l'acqua. Ma cosa vuoi che dica? È una vita che stiamo sempre combattendo con questo discorso dell'acqua qui. Tanto per non cambiare, poi gli è arrivata la terza mondezza, una, adesso mi arriva l'altra, tra un po'. Allora, terza mondezza, qua deve arrivare, mi pare, deve ancora arrivare. Lo so, adesso arriva l'altra, e io ne pago due, terza mondezza, e la terza già, poi già te la paga l'inquilino. Ma per due le pago io. Marco, la luce è mancata di nuovo? È mancata, mentre parlavo è mancata addirittura. Non me ne ero manco accorto. Ma l'ho immaginato. Infatti stavo ascoltando il PMR nel frattempo che tu rientrassi. Se fanno questi giochetti stasera con la corrente elettrica, è chiaro che non te lo puoi aspettare, no? Se tu già mi stai dicendo che già da un po' stanno facendo queste fasi di tensione, arriva o non arriva, per cui, vabbè, dai. Sì, ha iniziato alle 6 mi pare, perché io per esempio dalle 3 di pomeriggio, sai, c'era il ventilatore blando, insomma mi sono rilassato a tal punto che mi sono addormentato a sasso e dalle 3 di pomeriggio alle 6 di sera stavo dormendo e stavo facendo sogni di cose fantastiche, di mondi, insomma in tecnologia avanzata, capito? Un bel sogno è anche, mamma mia, quello per evadere dalla realtà ogni tanto. E mi sono svegliato proprio adesso perché ho sentito come un rumorino, ho una mancanza di rumore per meglio dire, no? Ho sentito un beep, non so cosa fosse qua, delle cose che ho in camera. E c'è stato il primo blackout alle 6. Capace che mentre parlo sparirò di nuovo, o mentre dicevo. Va bene, ti volevo fare una domanda, Giulio, se lo sai. L'autobot che va nei vari quartieri che dà l'acqua, no? Ma è potabile o non potabile? Sì, è potabile. L'acqua è potabile, almeno così dicono. Però io mi chiedo solo una cosa riguardo di quello. Cosa riempie l'autobot, no? Lui dice che va a Tempio a prendere l'acqua. E poi la porta stasera e la vende. Quando mai si vende un autobot e l'acqua così, la sera, di domani mattina è di nuovo lì col carico, mi sembra strano, cosa capace che va a Rosello a riempire l'autobotte, Guarda, non ce la meravigliatemi, oggi non bisogna avere fiducia di nessuno più, perché intanto lo sappiamo che il mondo è tutto un mondo di truffa. Di nuovo Giulio, è tornato adesso. Purtroppo in queste condizioni non si può ondulare, dai. Vai, viene ogni poco, ogni minuto così. Ho capito che è portabile, però cosa mi hai detto? Com'è possibile che si vendano autobotte di serie e poi? Perché quello va a tempio per sì. No, perlomeno io ho sentito che la porta da tempio, va a far carico e poi viene a stanza e viene a vendere. E quando mai si vende un autobotte d'acqua così, in poche ore, e poi domani mattina presto è di nuovo lì, e magari in piazzale Segno oppure in altri punti. Tipo di punti si mette anche vicino alla Mercata Ringrosso, ci sono queste rivendite d'acqua. Io ho la sensazione che quello a tempio non ci arriva per fare il piede dell'autobotte. La prima fonte che trovo, chissà dove, si riempie e basta, ma dicono che è stata controllata, che è abbastanza buona, non lo so, io non l'ho mai comprata, la verità. Sì, che poi c'è l'acqua da bere in bottiglia nei negozi. Per i fissati, uno ha detto che beveva solo acqua di tempio e i curatie. Ma io bevo tutta l'acqua che trovo, anche il rubinetto, io è una vita che bevo l'acqua di rubinetto. Poi se uno ha dubbio per l'acqua dell'autobotte, esistono delle compresse potabilizzanti, no? Tu ne metti una ogni tot litri d'acqua e te la depura, capito? Come se fosse il cloro della rete, mi. Ma no, non lo so, non è solamente la questione del cloro. C'è molto potassio, molto calcare, e l'acqua del tempio ad esempio è piena di calcare, infatti i medici non consigliano di bere sempre fissa l'acqua del tempio perché è carica di calcare e quella fa danno. Ma io sono lo stesso, ma noi compriamo diversi tipi d'acqua, compriamo l'acqua panna, compriamo l'acqua mattino, compriamo l'altura, forse la devia, levissima come si chiama, siamo un sacco di tipi d'acqua, io cambio continuamente, adesso magari in questo momento bevo l'acqua panna, dopo mezz'ora quando ho bisogno di bere di nuovo, bevo che so io l'acqua stamattina, io cambio continuamente, no, non c'è nessun problema. Sì, io prendo l'acqua che trovo, se sono d'Auchan mi accontento di quella di Auchan, se sono in un discount prendo quella che trovo. Quando mi chiedono che acqua bevi, io bevo acqua, rispondo. Ho sentito di persone, sai le fissazioni, io solo bevo esclusivamente Rocchetta, meno male che la trovi sempre. Chi è acqua di tempio, chi è acqua di Rinaggio, ho sentito questo nome, Rinaggio, forse quella è meno calcarea. No, questo non lo so, io so solo che l'acqua di tempio è molto calcarea, per cui non è così, sì, magari necessita, una persona necessita di bere per un certo periodo l'acqua di tempio, che so io per i calcoli, eccetera, eccetera, però non puoi bere sempre quell'acqua lì, perché sennò quella te la fa venire i calcoli, altro che il discorso è questo, o Marco. Ma questo ho detto da medico, che l'acqua di tempio si può bere, indubbiamente, questo sì, però non per sempre, per un certo periodo, basta, e poi devi cambiare. Comunque io ho sempre sentito dal medico, l'acqua bisogna cambiarla sempre, continuamente, non devi bere sempre fissa con l'acqua, con un tipo di acqua, cambiarla sempre, anche a Rocchetta, perché no, e tutte le acque bisogna cambiarle, tanto è vero, noi spendiamo un patrimonio in acqua tutte le settimane perché la usiamo anche per cucinare, non solamente per bere, per cui solo l'acqua del rubinetto la usiamo solo per la pulizia personale, per i panni, eccetera, eccetera. Capito? E anche per lavare le stoviglie, queste cose qua, è ovvio, no? E poi tante volte mia moglie, quando vede l'acqua che è sporca, prima lava con la acqua del tubile, del rubinetto, no? E poi ti sciacquo con l'acqua comprata in, ai supermercati, per dire, no? Poi mi chiedo anche l'autobotte, ma se verrà mai pulita, perché l'acqua bene o male fa dei depositi, nonostante magari sia in acciaio inox, e proprio la botte, del, insomma il contenitore, mi chiedo se venga mai pulito. Comunque naturalmente le compresse potabilizzanti, no? Se la fanno potabile nel caso di germi, no? Batteri, eccetera. Però non elimina le eventuali sostanze chimiche in eccesso o i minerali, potassio, magnesio, quello che c'è. Serve solo a renderla potabile quelle compresse. E di solito le vendono per situazioni particolari, quando ci sono penurie gravi d'acqua, crisi internazionali, che ne so, le mandano in Africa quelle compresse, perché quelli ci devono bere quello che trovano, e giustamente va potabilizzata, se no chissà cosa ci bevono quelli. Può servire in tutte quelle guerre mondiali, che ne so io. E comunque le vendono nei negozi tipo di articoli militari, forse anche in farmacia. Chi lo sa, non lo so, questo no. Ora ci sarà qualche cosa. Ma io lo so, io ho l'impressione che quelli non le puliscono mai, gliene frega molto. Riempiono e basta. Guarda che per riempire l'autobotte ci vuole tempo, mio, è uno scherzo. Guarda che c'è un amico che mi diceva, lui dice che lavorava prima all'istituto delle suore, andava alle 4 del mattino, da una fonte prendeva l'acqua per portarla in questo istituto e partiva alle 4 del mattino per semplice motivo, siccome la fonte scendeva proprio un filino di acqua e ci volevano ore per poterla portare a casa, per semplice motivo che se andavi più tardi alle 4 del mattino c'era già la fila. Per cui quando a riempire tutti i bidoni, tutte le persone, si faceva mezza giornata di tempo per dire. Ma allora dice, partivo alle 4, arrivavo lì con la macchina proprio vicino alla fonte, così non dovevo nemmeno faticare, perché riempiva bidoni da 25 litri, capito? Eia, io mi ricordo, ci andava sempre, no, anche altre persone. C'è una fonte nei dintorni di Florinas, in una delle strade che bene o male porta a Florinas. E me la ricordo proprio, una fonte. Adesso chissà a trovarla pure, perché lo sapeva solo nonno dov'era. Poi vabbè, ce n'era un'altra in una zona molto più isolata, me lo ricordo. E vicino c'era anche, separato dalla fontana, un abbeveratoio per greggi, così per animali. Però la sua preferita era la prima che ti ho detto. Acqua proprio di fonte, non so se fosse calcarea o meno, però all'epoca lui la prendeva, aveva questa passione anche. Ok. Sembra che regga la luce, sì. Magari devo dire parole famose, finché regge, dai. Ok, ho acceso per vedere se c'era qualcuno, ma anche ieri niente. Ci dobbiamo accontentare delle briciole. Infatti ieri ho chiamato diverse volte, ma niente, non c'era un'anima, per cui anche stasera, prima di sentire il tuo pipì, avevo chiamato a te, a Claudio, a Natalino, e non c'era nessuno. Poi, vabbè, tu avevi l'attenuante che ci mancava la luce, e vabbè, pazienza, cosa ci vuoi fare, se ne vanno al mare. Stamattina sono andato lì, prima alla Fusaro, poi alla GBC, sono andato, e lì ho incontrato Roberto Quadrato, ho incontrato lì con le usi. Come sempre c'è un casino con le gusto, c'erano poco di scatoloni, sia da una parte che dall'altra. E poi tra l'altro ero con un amico che doveva comprare un trasformatore, un alimentatore, per una poltrona elettrica che l'ha smarrito. Ed è un alimentatore da 29 volt, 2 ampere. E nessuno ce l'ha, non ce l'ha nessuno. Come devi fare? Richiederla magari da Amazon, perché sono loro, perché la poltrona è stata comprata, solo loro possono aiutare, ma comunque. caspita, 29 volte è inusuale. Comunque c'è che Amazon, io prima non bazzicavo, quindi non lo sapevo, Amazon vende roba proprio, c'è un trafiletto che dice spedito da Amazon, oppure per altri prodotti, lo vende sempre Amazon, no, tramite Amazon, però c'è scritto venduto da tal dei tali. Quindi Amazon prende anche roba da altri siti che decidono di vendere attraverso Amazon, no, come si fa per eBay, no, delle ditte vendono anche tra eBay, su eBay e hanno anche il negozio vero e proprio. E quindi sì, praticamente la persona spedisce la roba tramite Amazon, capito? Però certe volte Amazon, se quello è un filibustiere, no? Amazon certe volte magari non sarà responsabile fino a un certo punto di quello che ti spedisce, ma se la persona, insomma, bisogna vedere, non di tutti ci si può fidare, capito? Quindi se lui, se per esempio questa poltrona gliela spedita una ditta e tramite Amazon la riesce a rintracciare, è capace che il ricambio lo riesca a recuperare, capito Giulio? Oppure se la poltrona la vende direttamente Amazon, immagino che qualche ricambio ce l'abbia, e se no ci devi buttare tra la poltrona elettrica, ma quando mai? Appunto, sì, no, Amazon esattamente una ditta che raccoglie ogni genere di prodotto, no? E poi lui li spedisce, però evidentemente non è cosa che lui richiede da una fabbrica direttamente. Chissà chi è che lo fornisce, io sono convinto che è così, perché è una specie di raccolta di prodotti, dai, e poi li spedisce lui, e naturalmente col suo guadagno, è ovvio. Lui comprerà magari del grosso, non lo so, come fa. Sì, in effetti è così, trovare questo alimentatore da 29 volte è impossibile, però in un modo si può arrangiare uno. Infatti stamattina ho detto, ma l'alimentatore da 30 volte non ce l'avete voi, ne avrei fatto io la modifica togliendo lo spessore che si è attaccato, eccetera, no? Perché aveva lo spessore all'interno, poi con l'attacco USB, per cui non è semplice. Se c'è un trasformatore da 30 volte, no, da 35 volte ce l'abbiamo, o da 24 o da 35, no, non va bene, né uno e né l'altro. Non è facile trovare un alimentatore a 29 volte, lo costruisco apposta, lo costruisco, in modo che poi se lo prendi o se si brucia rimane appiedato. Sì, è come la storia anche un po' dei computer. Computer tipo non è 12 volte, 14, sono tipo 19 volt, 18, 19, il mio dovrebbe essere 19 volt, quindi se si rovina l'alimentatore è anche una rogna, anche perché il mio computer portatile era un vecchio modello, sto parlando del portatile, hanno questi alimentatorini lunghi, no? Tipo switching, se si guasta poi magari qualcosa di universale c'è, che ne so, magari tutti i computer funzionano a 19 volte, questo io non lo so, non ho esperienza. Ui ui ui. Sì, comunque anche noi cuciniamo con l'acqua buona, non con quella di rubinetto, perché ogni tanto danno la nuova, dice è potabile, poi non è potabile, è potabile, non è potabile, allora noi nell'incertezza, poi ho visto come sono ridotte le tubature, ogni tanto fanno vedere la foto sulla nuova delle tubature, è tutto un'incrostazione unica, praticamente il tubo ci passa la metà dell'acqua, cioè non un terzo dell'acqua, tutto il resto intorno sono incrostazioni, è obsoleto la rete idrica di Sassari, capito? Bisognerebbe rifare tutto, ma è un lavoro immane, capito Giulio? E quindi usiamo l'acqua in bottiglie, quella che ci capita naturalmente. Ok, adesso per parlare del clima, mamma mia, già stamattina per andare in cartoleria qui a 100 metri ho sudato, pensa, da domani arriva l'onda di caldo, super caldo africano, hanno detto, e a Sassari si arriveranno a 38 gradi anche, Per carità, guarda, speravo che fosse passato quel periodo, invece è ondate, capito? Arrivano queste ondate di, come si dice, alta pressione sudafricana, e è come essere in Africa, eh? Sì, l'ho visto stamattina, ho visto il meteo, io tutte le mattine alle 7 accendo la radio, ascolto il giornale radio e poi accendo alle 7:15, 7:20 là, accendo la televisione, accendo e l'ascolto lì, Gazzettino Santo. Poi passo alla 7, passo verso le 8:10, una cosa così, 8:10, 8:05, e di là il meteo completo di tutta l'Europa addirittura. Per cui quello che spiega per filo e per segno tutto il movimento, tutto l'andamento, tutto quello che succede col tempo che è in arrivo, capito? Per cui lo so, poi c'era un'altissima pressione, che sì, qualche perturbazione c'è, ma solamente sulle Alpi, qualche pioggia già l'ha fatta, ma non c'è stata niente nelle Alpi, noi siamo a nord della Sardegna, per cui abbiamo... Sì, tornando al discorso dell'acqua, quando loro dicono che è potabile, io dico che è sempre sporca, perché la vedo torbida, tu la prendi, la metti dentro un bicchiere e ti rendi conto che l'acqua è torbida, proprio perché è sporca. Per cui noi per cucinare compriamo quell'acqua, 6 bottiglie da 2 litri, mi sembra che la paga 1,57, una cosa del genere. Mentre invece per bere prendiamo l'acqua panda, l'acqua tabattino, la refrissima, quelle acque lì, la rocchetta, queste acque lì per bere. L'acqua panda costa 3,30, ogni 6 bottiglie, la tabattino costa 4,14, ogni 6 bottiglie con la gasata, eh? Per cui, perché qua noi abbiamo due siusti. Alle volte beviamo l'acqua pesante, alle volte beviamo l'acqua naturale, o l'acqua. Noi per risparmiare, che ne so, da Lidl prendiamo l'acqua in bottiglia da 2 litri, no, la confezione costa poco, tipo 1 euro e tanti, e tanto acqua è file, sempre fonti sono, certo, non è acqua di riciclaggio. E poi quella frizzante, della stessa marca più o meno, cioè quella costa poco, ne puoi prendere anche un po' di più, ti dura un bel po', perché queste acque anche di marca te le fanno ben pagare. Caspita, la copanna a 3 euro, quanto mai detto, a cartone, a confezione da 6. 3,30 euro, la copanna è 3,30 euro, quella naturale. Poi prendiamo l'acqua minerale gasata, stamattina 4,14 euro. Per cui in una settimana di quella ne consumiamo 2 confezioni, di quella di stamattino, e più o meno anche l'acqua panna, più o meno 2 confezioni anche per quello. Poi ce ne vogliono altre 2 confezioni per cucinare per la pasta, dai. Perché ogni volta che mia moglie cucina la pasta ci vogliono 2 litri d'acqua, una bottiglia da 2 litri. Per cui insomma è una bella spesa, se la vuoi, ma è una bella spesa, tutti i mesi una bella spesa solo per l'acqua. Infatti noi per limitare i costi prendiamo anche quella da discount, in base a dove ci troviamo, certo, ci siamo dello champ, pazienza, abbiamo quella che c'è, e la paghiamo molto meno, 1 euro, per esempio 1,09 euro, confezione da 6 bottiglie da 2 litri, più o meno, adesso non mi ricordo bene i prezzi, sempre meglio che bella di rubinetto, per carità, non tutto quello che passa nei tubi. Io poi avevo sofferto di calcoli in 2 occasioni, i neri ci mi hanno detto di bere quell'acqua lì o senza minerali, ma è troppo difficile, dai. Poi sempre diete, di non mangiare roba a base di calcio, di non mangiare e non bere acqua minerale, non so, tante cose. Se ascolti i medici non cambi, se ascolti le diete dei medici una volta per il colon irritabile, anche un'altra terapia, praticamente dovevi vivere di riso in bianco a vita, ho detto no, quando mi si bocciano, pazienza. Sì, e il riso in bianco e non esagerare anche, perché il riso, essendo carboidrati, poi i carboidrati si trasformano in calorie, per cui anche quello, ma cosa, guarda, io mi ricordo, e il mio medico la stessa cosa, non quello che ho adesso, quello che avevo prima, diceva proprio queste cose, mangiare poco, non bere alcolici, vabbè io non ne bevo alcolici, non ho mai fumato, non ho mai bevuto, per cui non mi piacciono nemmeno. E un giorno abbiamo fatto uno spuntino, abbiamo fatto a casa di mia cognata, e c'era questo medico anche invitato, perché il medico era un amico di famiglia, che poi si è dimostrato un animaletto, e allora l'abbiamo anche allontanato, anche tolto come medico, l'abbiamo spedito nel monastero. E stavo dicendo, e lui mi dice non bene, questo, quest'altro, ma lui dice non bene. Si è preso una sbogna lui il giorno, la notte lì, in una seminata, in uno studio, eccetera. E meno male che ha detto che gli altri non bene. E lui beveva un cammello bevendo vino. Ma i medici sono così, cioè loro le terapie, le diete le danno solo ai pazienti, ma loro poi fumano, bevono, fanno quello che vogliono. Io in questo periodo invece, sai, dopo pranzo, stiamo un po' conoscendo i vari amari, no? Ogni tanto l'abbiamo preso uno a turno, ma io ne bevo una quantità che è infinitesimale, tipo sai quei bicchierini mini, proprio mini, bicchierini piccoli piccoli, e ne metto metà, praticamente sono due sorcini, ma sorcini piccoli mini. E praticamente abbiamo trovato che il Montenegro era buono, che non l'ho comprato ma l'ho assaggiato quella volta della pizzata, lo Jägermeister era molto buono. Invece l'amaro del capo, il vecchio amaro del capo è un po' troppo dolce, sì, sa di agrumi, però un po' troppo dolce, cioè l'amaro deve essere leggermente amaro, però una cosa armoniosa, capito? Dicono che il braulio è molto buono, il braulio è una cosa più bilanciata, sai, è fatto di erbe di alta montagna, mentre l'amaro del capo è fatto anche da roba tipo agrumi, cannella, tutta roba mediterranea, capito? Mi risulta più dolce. Il braulio invece ha un giusto leggero amarognolo, però allo stesso tempo è gradevole. Invece sono amari imbevibili, proprio robaccia, che amaro come il fiele, il fermento branca, una cosa più cattiva non l'avevo mai assaggiato. E a seguire l'unicum, che a parte che è fortissimo, proprio ti stende, molto forte, molto, sono amari quelli per uomini veri, capito? Per esempio era buono il cinar, lo prendeva il nonno, il cinar era blando anche come volume alcolico, era di gradevole sapore, capito? E quello è un amaro per tutti, per dire. E così io anche oggi, siccome ho mangiato pesante, cioè mi sento la roba ancora sullo stomaco, io adesso me ne prendo proprio un mini cicchettino, che tanto da digerire. Ciao già, tanto mi sembra, non lo so, quel cambio l'elicottero, o forse natalizio sì, con l'elicottero, ciao, ok, ciao Fra, a momento stamattina ci incontravamo, perché qualche minuto dopo che te ne sei andato tu, da quel posto di lavoro dove eri, con la visita che hai fatto, mi sono incontrato con lui, mi sono incontrato proprio lì, di vicino, là, alla GBC, siamo incontrati lì, e ha detto, mi poco fa, dice, c'ero Claudio, eccetera, eccetera, ci è mancato poco che ci siamo incontrati qua, sì, pochi minuti dopo che è andato via, lui ha andato in quel negozio e c'ero anch'io, c'ero con un amico, stavamo cercando un alimentatore per una sedia, per una poltrona elettrica, stavamo cercando, e che poi tra l'altro non ce l'avevano, perché è un po' particolare, no? 29 volt, 2 ampere, eccetera, eccetera. Tipo un alimentatore tipo quelli del computer, una cosa del genere, del computer portatile però, non del computer da base, forse del computer portatile, ma il voltaggio lo combinava, dunque non era fattibile il discorso per l'acquisto. Vabbè, ci arrivava solo a 24 volt, oppure a 35 un altro tipo di trasformatore. Sì, quell'amico lì, appunto, non ti faccio il nome, ma già mai capito. Ogni modulazione, ah, ma chi, da chi c'è? Da Massimiliano? L'hai sentito, Ok, va, sì, l'avevo capito anch'io, ma non ho voluto fare i nomi, l'avevo capito anch'io che eri lì dove si trovi in questo momento. E vabbè, dai, no, non sto gridando, io non sto gridando per niente, sto parlando a voce abbastanza bassa, con 5 watt, per cui, vabbè, vuol dire, visto che mi sento lo stesso, per me va bene. Ciao fra, buon divertimento, dai, salutami anche Massimiliano e tutta la combricola, alla prossima, avanti Marco. Ehi, un saluto dai, da tutta quella zona, e pochi sono, escono così forte con quel tipo di apparato. Ok, adesso, mamma mia, da domani sarò in croce Giulio, per questo caldo. Una volta era talmente insofferente che sono dovuto rimanere dentro la vasca, mi sono messo dell'acqua e sono rimasto dentro perché proprio l'organismo si stava ribellando a quel tipo di caldo. E domani siamo punti a capo, pazienza. E poi quando c'è troppo caldo noi non andiamo nemmeno al mare perché anche il viaggio è debilitante. Sì, beh certo, ma io devo dire che al mare durante il giorno non ci vado proprio, questo per il fatto di non stancarmi, ma che me lo fa fare a stare lì in spiaggia? Anche se non fa niente, se sei seduto nella sdraio e sotto l'ombrellone, eccetera, vada. Almeno a me si stanca in una maniera impressionante. Certamente se devo andare a mare vado la sera, faccio quest'ora, vai, ti fammi diretto, quattro passi, prendo la bibita, un gelato e ti apposto. Passare tutto il giorno così, noi, alla mia età, non ci prendo proprio. Prima sì, già facevo, ho fatto anni e anni di campeggio, stavo anche quattro mesi al mare, se puoi immaginare. Era organizzatissimo però, quando allora permettevano di fare campeggio, eccetera. Ma adesso, che me lo fa fare? Sto bene a casa, preferenza me ne vado in giro, faccio quattro passi in giro e tutta l'altra musica. E poi devo andare a mare, ci vado la sera, per respirare aria sana, diciamo, per così dire. Capito, Marco? Sì, sì. No, tutto il giorno al mare no, hai detto tutto il giorno, no. Noi quando andiamo siamo due orette e mezza, no. Proprio stare lì in spiaggia già pronti, un paio d'ore, due ore e mezza massimo proprio. Perché poi il caldo mi stanca molto, proprio la radiazione solare la sento. A parte che io non mi abbronzo perché sono sempre in acqua. Io quasi tutto il tempo che siamo al mare sono sempre in acqua. Bello, con la testa immersa, mi bagno proprio tutto. È come stare in piscina, è un bijou. Anzi, stare al sole scalda troppo. Mi scalda proprio la pelle, sento il bisogno poi di andare all'ombra, se non sono in acqua. Mi metto sotto l'ombrellone e... capito? Però quando il caldo è veramente estremo, anche la sabbia, no? Come irradia il calore, sembra di stare in un forno. E vediamo quello che potremo, che riusciamo a fare. A costo di andare tardi, certe volte andiamo alle 5 al mare. Siamo fino alle 7, così un paio d'ore, poi cominciamo a preparare tutto e ce ne torniamo. Ma andare all'ora di punta, no, assolutamente no. Poi col caldo africano, no. Si trovano stecchiti, se non mi... Sì, ma è così. Guarda, la brodatura, sai cosa consiste? La brodatura delle maniche corte, della maglietta, dunque, di avambraccio, abbronzante, un po' le mani, il viso, non molto, la testa, perché mi mancano capelli, per cui ho pochi capelli, quasi niente, ormai ne ho. per il resto sono la mozzarella, è stato poco bianco, sì, per carità. Vabbè, io sono così, che problemi ci sono. No, ripeto, prima già mi abbronzavo, quando facevo campeggio, mi abbronzavo e anche abbastanza, ma poi tutto sommato è cominciato, tanto non ti permettevano di fare il tuo campeggio, poi al suo tempo hai cominciato a avanzare con l'età e allora, oh, basta, finito, il male per me è finito, non possono anche ascoltare, interessante che ci siano sempre i pesci, anche quando hai ascoltato, oh, Marco. Eia, che ore sono le? Aspita, oggi, guarda, io non mi sono reso conto, sai, c'era il ventilatore, c'era un bel freschetto, io ero in mutande praticamente. Alle 3, oh, addormentato, 3 ore di sonno, 3 ore di slippatina, come la vuoi chiamare. Mi sono svegliato che era tutto rimbambito, infatti, non... poi era strano perché era mancata la luce e non capivo perché non funzionava più il televisore. Insomma, vabbè, vediamo cosa ne esce. Io quasi quasi, tanto tu dovrei cenare, Giulio, quasi quasi andrei a vedermi il telegiornale. Io già non ne ho visto, quasi. Io guardo il telegiornale alle 8 al canale 5. L'unica notizia che ho sentito è che uno di questi Zulu ha coltellato un capotreno alla mano, si era nascosto per non farsi vedere, si era nicchiato in un angolino, no? Perché ovviamente non aveva biglietto, questi non ne hanno biglietto, capito? Credono che tutto sia gratis qua. Beh, il controllore del treno gli ha chiesto il biglietto, questo per tutta risposta leva un coltello dalla cucina, manco d'accordo c'è nel controllore, e gli ha dato una coltellata verso l'addome, però per fortuna il controllore aveva la mano all'altezza dell'addome, no? E gli ha beccato la mano, se no gli avrebbe fatto un buco in pancia, capito come sono questi qua? Io li avrei tutti spediti fuori, il foglio di via a me proprio, a parte che questi non sono europei, quindi non hanno libero transito. Per carità, e abbiamo un governo che fa schifo, a me mi fa schifo questo governo, c'è da vergognarsi di essere italiani, ma non è possibile che si possano accettare certe situazioni. Poi mi fa schifo una parte del popolo italiano anche, che li aiuta queste persone, che gli dà anche delle musica, perché se ne trovi uno o due addirittura in tutti i supermercati, davanti alle farmacie, davanti a qualsiasi posto, a qualsiasi negozio, ma non è possibile. Io voglio vedere quando è che si sveglia l'italiano, non riesco a concepire questo discorso. L'italiano è un popolo di imbecilli, è un popolo di grandissimi imbecilli, guarda. Non è possibile che si debba essere così. Sembriamo la patumiera del mondo, non dell'Europa, del mondo, perché tutta la mondezza dell'Africa sta arrivando qua, soprattutto quei nigeriani, che è tutta gentaglia, fresca di sangue. Anche ieri ne hanno arrestato 5, mi sembra, perché avevano trovato non so quanti chili di droga avevano. Non è possibile accettare una cosa del genere, nonostante tutto le lamentele degli italiani e di tutte le persone che hanno un po' di senno nella mente, non c'è niente da fare. Il governo ha degli interessi monetari a fare arrivare tutta questa gente qua. Io voglio sapere cosa sta pensando a mettere fine a tutto questo, a tutta questa invasione che sta arrivando. Purtroppo l'italiano, gli italiani sono un popolo di caproni, l'italiano si solleva solo, farebbe una guerra civile solo se gli toglie lo stipendio, ma l'italiano una volta che lo stipendio è un menafutto, capito? È così. Invece ci vorrebbe una bella cosa, una rivolta popolare contro il governo, come c'è in Venezuela. In Venezuela sono i ferri corti, scontri proprio, c'è tre quarti di paese contro Maduro, come si chiama, contro il presidente venezuelano. dovrebbero fare una cosa qua in Italia, perché la situazione sta diventando insostenibile, l'ha detto anche una politica, dice se qua continuiamo viene tutta l'Africa da noi, tutta, poi hai visto cosa fa la... Hai capito come sono il resto d'Europa? L'Austria ha detto che se arrivano altri migranti in Italia, che c'è il rischio che vadano da loro, loro chiudono i confini e mettono l'esercito ai confini, capito? Per non farli entrare. E ce li dobbiamo tenere noi. E l'Europa è nata male, troppo comodo è, capito? L'Austria vuole chiudere i confini e metterci l'esercito per non far entrare nessuno. Capito? L'Italia se li deve carrare. Attio. Purtroppo è così. È l'Italia che ha degli amministratori incapaci, sia a livello comunale, provinciale, regionale e anche nazionale. Sono tutti degli incapaci. Per non dire poi che una buonissima parte di queste persone sono anche ladri, perché già le abbiamo sapute tutte le cose, tutti i soldi che si hanno rubato nei vari posti e che stanno intanto continuando a rubare. Purtroppo l'italiano è un popolo, ripeto, che all'italiano mi tu basta che tu gli fai un concerto in piazza, oppure gli fai vedere una partita di calcio, oppure gli fai vedere una messa così fatta dal Papa soprattutto, è contento. Poi per il resto è benefica di tutti i sì. Si dimentica di tutto, basta che ci sia uno di questi eventi, perché l'italiano si dimentica dei veri problemi che ha il paese. Ma quello che ci vuol fare. Pazienza, dai. Le 8 in punto, Marco, sono adesso, tra qualche secondo sono le 8 in punto. Ti lascio andare a vedere il telegiornale e io scendo dalla cena, anche se stasera, stanotte, la cena è un pochino più tardi, verso le 8 e mezza. Quindi abbiamo cambiato giorno, perché è giovedì e la pista è mercoledì, per questioni di lavoro, eccetera, di mio genere, eccetera. Vabbè. Ci sentiamo, ciao Marco, grazie per la chiacchieratina, alle prossime. Ciao Claudio e al Massimiliano, se siete in ascolto, saluto di nuovo, alle prossime domani eventualmente. Vai Marco. Ciao a tutti quelli d'ascolto, ciao Giulio, sentiamo dai. L'ultima battuta ho detto vedrai che poi sono quelli di sinistra a cui piacciono queste schifezze. Vedrai che a seconda di cosa hai fatto ti obbligheranno ogni famiglia a ospitarne uno. Ah? E allora Simmi, il collo li taglio. E vabbè, purtroppo hai ragione, anche il calcio, all'italiano basta abbia stipendio e calcio e vive così, anche se ci fosse una dittatura vivrebbe bene, basta che c'ha il calcio e lo stipendio. Ciao, buona serata Giulio, ciao ciao. Ciao, ciao Marco, ci sentiamo nel prossimo. Ciao l'amico che ha salutato, ciao, alle prossime. Ciao Giulio, sono arrivato, ciao anche a Marco, sono ascolto, non so cosa, alle prossime, ciao ciao. Oh, ciao. Ciao Maria, tu. E ti ha chiamato poco fa, evidentemente avevi il baracchino spento, vedi? Ti ho chiamato all'incirca verso le 7 più o meno, eh. Ho chiamato un po' di persone, l'unico che mi ha risposto è Marco. Poi è stato Claudio a salutare e mi ha fatto piacere, alle prossime. Ci sentiremo domani. Bravo. Ciao Maria, alle prossime, dai, ci sentiamo domani eventualmente. Noi siamo sempre qua la sera, sempre su questo canale, il canale dei furti, senza presunzione. Ciao Maria, alle prossime, ciao. Ciao Giulio, grazie, alle prossime. Io so che mi avete chiamato, ma sono un reporter che viene il nonno a giocare, dunque no, ne ho approfittato. Benissimo, ci vediamo domani se è caso. Ciao, buona cena Giulio. Ciao anche Marco, ciao anche Claudio, ciao anche tutti quelli che sono ascolto. Chiudo anch'io, ciao ciao. Ok, ciao, ciao Maria, alle prossime, ciao.